Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, Anne-Marie thing made them air. Si avventa sulla palla e finisce così. Serena Williams vince per la settima volta agli Australian Open, numero 23, come Michael Jordan, e sono i titoli dello Slam per la statunitense, che torna anche numero uno al mondo. Bissa, Isco, pallone di ritorno per Gobbi, la palla dietro e il piazzato con il destro inglese al 45esimo del secondo tempo porta il Chievo in vantaggio, incredibile all'Olimpico. Brozovic dentro per Icardi, posizione regolare, Icardi dentro e Der 3-0. Ha vinto Roger Federer, torna a vincere uno slam dopo quasi 5 anni. Emozionato Federer, lacrime agli occhi, quasi a 36 anni vince il 18esimo slam. Che dire di più? Che dire di più? Momento di Cannavaro, dell'impostazione, rega la palla a Higuain, subito il cross per Dybala, il velo sta arrivando, che dire! 2-0 per la Juve, azione spettacolare. Va Muriel! La Samp 3-2, ribalta il punteggio. Però con la giocata a sopraffina, poi ancora De Paul al limite. De Paul con il destro e l'Udinese va in vantaggio con De Paul, primo in Italia in Serie A. Mertens, occhio a Mertens, Mertens prova Vasevez, è 1-1, 1-1 il pareggio del Napoli, l'errore di Vasevez. Beh ragazzi, direi che qui di temi ne abbiamo finché vogliamo, riassunti meravigliosamente, ringrazio Giorgio Lugo, il nostro autore, Edoardo Lavezzani in redazione, naturalmente Gianmarco Ferronati in regia. Dicevo, temi ne abbiamo finché vogliamo, perché in Australia siamo saliti sulla mitica DeLorean, la macchina del tempo di ritorno al futuro, con la finale tra Serena Williams, che è anche il prodotto di una crisi del tennis femminile, che non trova nuovi fiori, nuove protagoniste. Su Federer Nadal invece è un'altra storia, ma poi l'affrontiamo. Poi abbiamo visto che la Juventus rimette le cose a posto, ma perché gli altri si scansano. E ditemi di no se potete. 800-24-0024 è il numero verde. Si scansa la Roma, che si fa rimontare, superare in 2 minuti, in 3 minuti a Marassi dalla squadra delle Viperette, dalla Sampdoria, quella che Pardo sbaglia sempre nei pronostici, come ha fatto anche in questa occasione, anzi tra poco arriva Pardo insieme a tutti gli altri ospiti. E una squadra che vuole vincere lo scudetto non può, poi c'è il rigore non concesso su Dzeko alla fine, ma un 3-3 avrebbe comunque cambiato poco per una squadra che aveva blindato la porta e che invece ieri l'ha aperta ai 4-20 alla Sampdoria. Dunque di nuovo Genova pericolosa per le grandi del nostro campionato, dopo la Juventus sul campo avverso naturalmente, stavolta tocca alla Roma. E la Juventus, gli altri si scansano, Napoli pareggia in casa con il Pescara e così non va, si affretta a dire Martens, poi lo sentiamo. Gli altri si scansano, Napoli, per il quale avevamo speso tutte le più belle parole del mondo, track, si incarta anche lui. La Juventus, io sono curiosissimo di vedere questo modulo riproposto contro la squadra del momento, che è l'Inter, con il suo filotto di vittorie. Serve grande collaborazione, grande spirito di sacrificio da parte di tutti gli interpreti. Poi ci sono mani date, mani non date, quella di non data, quella di Dybala ad Allegri al momento del cambio, come ha scritto mio amico Cristiano Gatti oggi sul Corriere della Sera. Ma non gli ha dato la mano perché è un ragazzo educato, cioè ce l'aveva sporca, non voleva inzozzare il suo mister, l'ha data invece ai compagni di squadra. Ma questo è un punto nodale, perché per giocare così serve grande spirito di sacrificio da parte di tutti gli interpreti. Qualche voce, ad esempio Higuain, lo dice anche lui. Il mister ha avuto grande coraggio di provare questo modulo, e dopo il lavoro è nostro che ci andiamo in campo di dimostrare che non è sbagliato. Penso che queste tre partite lo abbiamo fatto consegnando pochi palloni all'avversario, ma quello serve anche con l'aiuto di tutti, no? Penso che se corriamo tutti abbiamo questo atteggiamento, è difficile sbagliare la partita. Già i messaggi sono piccanti. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. Salutatemi Pardo, tra poco lo facciamo, subito dopo il traffico. Complimenti a Napoli che gioca il calcio più bello d'Europa, come abbiamo sottolineato in tutti questi giorni. Ma sentirei anche la voce di Spalletti, uno Spalletti parecchio deluso dalla Roma di ieri, quasi rassegnato. Il momento è ora, la possibilità di far bene ce l'abbiamo in queste partite qui e oggi l'abbiamo buttata via, insomma, per cui bisogna stare dentro con la testa a quelle che sono le cose nostre. Sentirei prima del traffico anche Sarri, il terzo che si è scansato, il secondo che si è scansato. Sono partite che ogni tanto succedono, purtroppo è... Io dal campo non ho avuto la sensazione che la squadra abbia fatto male, anzi, si è trovata sotto nell'unica occasione in cui nel primo tempo ci sono entrati praticamente neri. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo sbagliato tanto sotto porta, può succedere, potevamo essere un attimino più lucidi nei 5 minuti finali. Tutti convocati. Eccolo arrivato, mio compagno di viaggio Pierluigi Pardo. Ciao. È arrivato l'arrotino, come va? È arrivato l'arrotino. Coltelli, sì. Forbici, ombrelli. Bravo, bravo. Sai chi ti saluta? Chi mi saluta? Attilio Caia. Attilio Caia. Ricambia con affetto. Ho volato, era un volo pieno di sportivi. C'era Ambro, c'era Nicola Lombardo del Napoli, c'era la pallacanestro Varese che tornava dalla vittoria di ieri a Caserta, insomma, era proprio, si parlava solo di sport. Quindi... Tutti i nomi che conosce bene il nostro ospite. Billy Costa Curta. Essendo tifoso di Varese. Essendo tifoso di Varese. C'è Varese Milano, domenica, se non sbaglio, giusto? Tra l'altro. No. Contemporanea sì. Con gli UE Inter, però. Contemporanea, vedremo di risolvere il problema, Billy. Sì. Assolutamente, buongiorno. Come stai, Billy? Ciao. Tutto bene? Tutto molto bene, grazie. Tutto bene anche per la vittoria di Varese. Se vedi fianco l'allenatore, il giocatore, ringraziali perché era un periodo, insomma, non positivo, diciamo così. Poi è arrivato il mio amico Attilio Caia di Pavia, peraltro come me, che conosco fin da quando ero bambino, e ha messo qualche cosa a posto. Ma tra quelli che hanno messo le cose a posto, Billy, ti sei ritirato a 41 anni alzando la Coppa dei Campioni. Cioè, sì, Federer... sì, sono andato un po' lungo, sì. Sei andato un po' lungo. Anche Federer, 35, non si ritira, in compenso alza l'Open d'Australia. È stato un bel weekend comunque, anche fuori dal calcio. Sì, devo dire che soprattutto fuori dal calcio, quell'immagine, quella partita, i due attori, abbiamo vissuto veramente una pagina meravigliosa dello sport, credo che rimarrà nella storia, ci siamo emozionati e commossi tutti, veramente non solo per Federer che abbiamo veramente elogiato in tutte le maniere, io credo che anche Federer debba sempre ringraziare Nadal perché è fortunatamente grazie anche a Nadal che Federer è diventato così. Sì, no, non c'è dubbio. Come... Ma c'è una regola? Che regola vuoi fare? Tu sei uomo di sport e adesso anche uomo di comunicazione. E c'è sempre un po' questo dibattito su quale sia il momento migliore per lasciare. C'è la strategia di chi lascia nel momento più alto della carriera, magari un po' sorpresa, il caso di Rosberg è abbastanza significativo. C'è chi invece, come per esempio Del Piero, fa addirittura un libro e ti dice giochiamo ancora perché finché si diverte... Si diverte. Che... Poi c'è Totti che lo mettono in campo poco, gioca da fermo, ma ogni volta che lo mettono in campo regala, elargisce delle perle come ha fatto anche ieri a Genova. Che regola vuoi fare, Pier? No, volevo sapere da Billy che idea si è fatto, insomma, da questo punto di vista. Sul momento giusto. Sì, io ho continuato, Pierluigi lo sai perché ero in un ambiente meraviglioso, andava tutto bene. C'era uno spogliatoio che mi permetteva veramente di sentirmi importante, ero nella squadra più forte al mondo, quindi il mio è stato veramente un cammino molto semplice da seguire. Poi a un certo punto è nato mia moglie, mi ha dato il figlio, a quel punto mi sono allontanato, però insomma, forse dovevo smettere 3 anni fa, però a 40 anni mi permetteva di giocare Coppa dei Campioni. Ho fatto il capitano a 40 anni al Nou Camp in una semifinale di Coppa Campioni, ecco, quindi devo dire che le soddisfazioni me le sono prese fino alla fine. È chiaro che è molto soggettiva perché io non avevo nessun tipo di stress, e quindi quello mi ha permesso di arrivare. Alcuni vanno via prima, proprio all'apice, e credo che sia il caso di Roger per quello. Però ecco, credo che fossero due sport diversi. Io mi divertivo, mi sono sempre divertito tanto e senza stress. Sulla fredda cronaca invece, dicevo prima in apertura, sono gli altri che si scansano. La Juventus fa il suo a Sassuolo, tra l'altro, come scrive il nostro amico Mastro Crosetti, già 5 volte su 6 nel 2007 la Juventus ha segnato 2 gol nei primi tempi, 10 volte in assoluto è riuscita a segnare almeno il primo nei 15 minuti iniziali. Impacchetta le partite, le chiude, e Napoli e Roma stavolta si scansano, per usare una parola molto di moda, Billy. Io ho fatto parte di una squadra che era altrettanto cinica, altrettanto formidabile sotto l'aspetto caratteriale. Credo che questa entri di diritto nelle più grandi squadre del panorama europeo, perché comunque sappiamo tutti che non è facile in Italia fare quello che fanno loro. Sono dei vampiri, ripeto, mi ritrovo in alcune situazioni, perché poi le altre cercano di fare delle cose normali, perché è normale per la Roma eventualmente andare in vantaggio a Genoa contro la Sampdoria dopo che la si è affrontata 10 giorni fa e aver vinto 4-0, e quindi credo che sia normale rilassarsi. Questi invece non si rilassano mai, c'è la differenza tra quelli normali e i vampiri, certo. E credo che sia lì. I cannibali. Per me c'è anche adesso questa chiave tattica che è importante, che credo si debba riconoscere ad Allegri, perché veramente stiamo assistendo ai primi vaccini di qualcosa che però potenzialmente può essere molto, molto importante. Ne parlavo proprio con Gaia, perché se poi gli sport cambiano, ma alla fine il concetto secondo me è sempre quello: riuscire a far sì che i migliori giocatori che hai, i più forti, riescano a sacrificarsi come dei gregari. Quello è l'aspetto Montagli interessante. Ha fatto il libro Scogliato dei tacchini, comunque insomma ci sono i gregari e ci sono i fuori classe. Se tu riesci a far giocare i fuori classe con lo spirito dei gregari e riesci ad avere per esempio da Mandžukić quello che ti sta dando, o dai Tot Triplete quello che ti sta dando, o abbassare Pirlo come fece Ancelotti con... Bravo. Questo è l'aspetto interessante. Questa Juve nata, Billy, concordo parola per parola su quello che dice Pardo, cioè è il segreto di Pulcinella, farli convivere al di là della mano data non data del giocatore che può essere arrabbiato per il cambio. È chiaro che se tu giochi in questo modo, ognuno dei più grandi talenti deve rinunciare ad un pezzettino del suo talento, e questa formazione, che io continuo ad essere convinto nata come sgarbo livornese, come sberleffo alle critiche in casa contro la Lazio, sta assumendo un'altra dimensione. Anche qui riscopro esperienze mie, perché nel 2003, quello che faceva riferimento con Pirlo io c'ero. E quindi quel cambio ci diede veramente nuova energia, nuovo entusiasmo, perché ci eravamo probabilmente fossilizzati in una tipologia di gioco, eravamo diventati quasi noiosi. Sì, quello invece ci diede nuove motivazioni, e vedere che Seedorf, che fino a quel momento forse veniva criticato dall'esterno ma anche dall'interno per un po' di pigrizia, rincorrere, perché io in quelle squadre giocavo terzino sinistra, mi dava una mano in una maniera pazzesca, vi assicuro che sorprese tutti e coinvolse tutti a dare qualcosina in più. Ecco, forse è molto simile. Io vedo la palla rubata da Higuain ieri, io vedo Mandžukić, sinceramente non ho più parole, ma lo stesso Cuadrado, che rivedo un po' in alcune situazioni come Seedorf, un po' pigro così, ieri ha fatto una partita pazzesca. Io credo che abbia avuto coraggio e sinceramente bravo D'Allegri, bravissimo. Sì, il nome chiave, guarda, quello che viene in mente per primo anche a me è proprio quello di Seedorf, come a te, Billy, in quel Milan. Perché Seedorf, che ogni tanto entrava in pantofole, entrava in ciabatte quando non ne aveva voglia, in quel Milan rinunciò a una parte del suo grandissimo talento. Il problema è quanto va avanti, Pardo. Abbiamo, secondo me, la prova del 9. Volete enfatizzare la mano non data di Dybala? Io non lo farei. Non so voi. No, scusa, volevo prima dirti che secondo me va avanti. Poi è chiaro che Marchisio che torna completamente recuperato dall'infortunio, è uno che è molto difficile da non far giocare. Io penso che noi rivedremo il centrocampo a tre. Però io, poi c'è un altro aspetto, secondo me, abbastanza importante, è la difesa. Nel senso che Allegri è un quindi penso potrà confermare, di fondo è uno a cui piace giocare a pallone. È chiaro che la difesa a tre della Juve è un po' la coperta di Linus, è il modo nel quale loro si sentono più sicuri. È stata talmente forte, talmente granitica, che in tanti momenti insomma era impossibile rinunciarci. Però l'ambizione per fare il salto di qualità a livello europeo è anche quella della difesa a 4, quindi secondo me questo tipo di modulo è il modulo definitivo della Juve. Poi ovviamente vedremo sicuramente qualche volta il centrocampo a 3, vedremo delle situazioni diverse, però io comincio a pensare che diventi il sistema di base. Quanto a Dybala, peccato di gioventù, direi, no? È giusto che qualcuno gli tiri le orecchie, perché poi nel calcio di oggi si vede tutto, e quindi soprattutto una cosa del genere si vede, però direi che è un peccato di gioventù. Ma io, Allegri ieri è stato perfetto nelle dichiarazioni post partita. Non è che te la puoi prendere con un ragazzo che ha voglia di giocare a pallone, però in privato, secondo me, nello spogliatoio. Certo, poi ha sottolineato come non abbia dato la mano a lui, l'ha data ai suoi compagni, e l'importante è questo. Max Allegri è uno che le sa tutte, insomma, come quello là. Ma come anche quello. Max, secondo me, potrebbe migliorare e fare come io. Ho avuto un allenatore Capello che faceva finta di urlare ordini quando uscivano i giocatori. Ti assicuro che con Roberto Baggio non era facile sostituirlo. Lui si voltava facendo finta di dare ordini, così non andava mai la mano a nessuno. Ecco, forse quello può essere una via. Sì, Peterson, quando faceva i cambi, racconta nei suoi vari libri, andava in fondo alla panchina per non sentire cosa diceva quello che usciva. Ognuno ha la sua strategia. Del Napoli abbiamo parlato bene un sacco di volte, io e Pardo. Spalletti ieri mi è sembrato un po' dimesso, aveva un po' uno sguardo da bastonato ieri Spalletti, Billy. Sì, anche perché era un periodo che un pochino le andava bene, un pochino pensava di aver risolto perché la squadra non stava giocando bene, diciamolo. Però in realtà aveva questi tre difensori centrali che ieri, secondo me, a un certo punto ha detto: ma chi me l'ha fatto fare di cambiare quei tre e di metterne uno solo perché si sarebbe uscito meglio da quella parte col sinistro? È stato un pochino un azzardo, però ripeto, e purtroppo non possono fare le cose normali, può capitare una sfortuna così. A quelli davanti però non capita, veramente. Credo che sia molto difficile dare delle spiegazioni se non il fatto che quelli là sbagliano assolutamente niente. Sì. E quando sbagliano, le poche volte che sbagliano comunque in una comfort zone. Se noi guardiamo bello comfort zone, bello, perché voglio dire, poi se guardiamo le sconfitte della Juve, sono sconfitte arrivate dopo impegni infrasettimanali e in situazioni in cui comunque non c'era uno stato reale di pericolo. Cioè la Juve da più 7 va a più 4, ma non abbiamo ancora assistito più 4 virtuale, non abbiamo ancora assistito alla Juve che da più 4 va a più 1, che va dietro in classifica. Questo secondo me non è un dettaglio. Io ho commentato il Napoli ieri sera e si fa tanta fatica a spiegare il calcio, perché il calcio, ecco, continuando il paragone con il basket, non è uno sport a percentuale, non è uno sport dove chi gioca meglio vince. Io faccio fatica a dare una spiegazione. Sicuramente l'approccio alla partita non è stato ottimale, sicuramente il Napoli subisce troppi gol e quindi si è incasinato la vita da solo. Detto questo, poi ha fatto 10 palle gol. Cioè è difficile, lo so Pierluigi, però ha anche fatto 1-1 e... La presenza sottoporta si allena? O è una componente che riguarda, cioè quando tu vedi Caglioni, Insigne e Mertens che ieri non la buttano mai dentro, perché poi di questo stiamo parlando, trovando fra l'altro un grande portiere, e quella roba lì c'è un limite, vuol dire che si sono, la banalizzo, allenati male, che erano dei concentrati, oppure semplicemente quella roba lì non l'alleni? No, secondo me è naturalmente allenabile, perché tu se fai 100 colpi in un allenamento è una cosa, se ne fai 1000 è un'altra. E quindi quello credo che sia sempre migliorabile, abbiamo esempi pazzeschi. È naturale che in alcune partite probabilmente si affrontano delle squadre in una certa maniera e non con la giusta mentalità. Quindi io credo che ieri, sotto un certo punto di vista, abbiano visto sulla carta una squadra che era molto in difficoltà e poi sotto un certo punto siano rimasti sorpresi. Però la cosa che rimarchiamo sempre è l'inizio della Juve. La Juve entra con tutta la cattiveria necessaria, poi a un certo punto va a soffrire roba del genere, però come entra in campo la Juve ti mangia. Purtroppo quelli non c'è niente da fare, bisogna essere così, bisogna entrare con quella cattiveria. Non tutti ce l'hanno, anzi ce l'hanno solo quelli. Sì. Entra, ti strappa il cuore e poi va via. Un telegramma sul Milan per chiudere questa bellissima chiacchierata, Billy. Io ho un mio pensiero: il Milan in questo momento ha smesso di correre. Credo però che debba in questa stagione correre quasi senza guardare la classifica, perché i suoi competitors non sono né i primi tre né l'Inter, sono quelle altre che cercano l'Europa. I giovani stanno avendo un momento di difficoltà, da Donnarumma a Locatelli. Ieri sono stati gli infortuni di De Sciglio e di Bonaventura. Il Milan deve a testa bassa continuare a seminare, alla fine del campionato alzare, guardare il tabellone e vedere dove è arrivato. D'accordissimo. Fino a e ancora adesso i numeri sono di una squadra che viaggia dal sesto all'ottavo posto. Io li guardo i numeri senza dare senza ritenerli fondamentali, però qualche informazione la danno, perché sono lì come tiri in porta, sono lì e sono al settimo ottavo posto come tiri subiti, sì. Sono al settimo ottavo posto come occasioni create. Ecco, io credo che a un certo punto siano stati fortunati, adesso li sta girando un pochino contro, però i numeri secondo me dimostrano che ci sono quattro squadre che sono più forti. Certo, quattro squadre che sono più forti e il Milan è dove puoi immaginarti che sia. Sì. Billy, ti ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Billy Costacurta. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi continuiamo. 800 24 00 24, magari andando un po' verso la delusione romanista e napoletana, cosa dite? Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. E Luigi, abbiamo un sacco di convocati che hanno voglia di parlare anche. 800 24 00 24, primo è Giacomo, buongiorno. Pronto, buongiorno Giacomo, come Bonaventura, buongiorno. Fuori due mesi e mezzo, non lei, il povero Bonni. No, per carità. Anche per De Sciglio si profila lungo, stop, dica. Innanzitutto di Federer, con due piccole polemiche. Una, perché settimana scorsa voi avevate, non mi ricordo chi perché mi ero collegato tardi, un guru che aveva pronosticato che mai più Federer avrebbe vinto un torneo del Grande Slam. Quindi con Federer bisogna saper fare i conti, perché è un esempio a 360 gradi. Un guru. La polemica inizia con una piccola domanda. Sì. Voi avete sempre detto che i campioni di qualsiasi sport devono essere assolutamente un esempio per i giovani nel loro stile di vita, fuori e dentro dal campo. No, io non l'ho mai detto, anzi sono contrario a questo. Non so. Lei è contrario, però io l'ho sentito dire da voi parecchio che devono essere comunque degli esempi. In ogni caso io volevo fare, se era possibile, un parallelo fra, appunto, sia sportivamente magari no, ma come uomo, fra Federer e Maradona, che viene sempre osannato da tutti. Allora, io il guru non me lo ricordo, non so, pardo, quello che ha pronosticato che Federer non aveva vinto. No, il guru non me lo ricordo, quella cosa lì. Io credo che in generale essere, tra virgolette, brave persone sia meglio che essere cattive persone, scusa la banalità. Credo anche che esista una realtà percepita che magari certe volte è diversa dalla realtà vera, dalla realtà reale. Cioè io non so dirti se, non lo so, dimmi chi può essere un cattivo della storia del calcio, uno se poi umanamente sia meglio o peggio di uno che magari passa per un buono, senza fare lo so, nomi, io dico è molto che difficile, secondo me esiste un'etichetta, un personaggio che in parte in qualche modo ti crei pure, poi in molti casi questo personaggio corrisponde alla vera indole di una persona, ma non è sempre esattamente così, e comunque sia, non è che lo dico io, dico una persona un po' più importante di me, chi siamo noi per giudicare, cioè è molto difficile giudicare le persone da fuori. Ora è chiaro che Maradona, che io ieri per esempio ho messo nella mia, nel mio Pantheon dei tre, ma dei sta tre anche nel mio, sta anche nel mio tuo, certamente. Sicuramente avrà avuto dei comportamenti nella sua vita che sono discutibili, che sono controversi, che in qualche caso sono anche condannabili, perché insomma, sicuramente ci sono stati dei passaggi dal punto di vista fiscale, dal punto di vista della condotta, che non sono certamente da consigliare ai figli. Detto questo, lo sportivo è sportivo per quello che fa, per quello che rappresenta e per le emozioni che suscita. Non siamo in grado di giudicare. No, ma non, fatica. Maradona ha fatto bene a Napoli, per esempio. Maradona ha fatto bene all'Argentina. Maradona ha fatto bene a un sacco di gente. Maradona ha fatto del male a se stesso e non certamente non come condotta di vita non è un esempio da imitare, ma sono contrario al fatto e che... comunque esiste la libertà. Adesso stasera abbiamo fra gli ospiti Antonio Cassano, no? Facciamo il discorso l'altro giorno. Ah, sì. E anche quelli che hanno buttato via il talento, come sicuramente nel caso di Antonio, poteva sicuramente vincere di più. Però alla fine se l'hanno fatto con libertà, cioè alla fine fanno i conti con se stessi e con la loro vita, esatto. Non è la quantità di vittoria che ti rende un uomo felice o ti rende un uomo triste. È chiaro che se questa diventa una frustrazione per cui poi tu stai tutta la vita a rosicare per quello che potrebbe essere e non è stato, peggio per te. Ma in generale ognuno vive come gli pare, ognuno vive, l'unico obiettivo, scusa il discorso da filosofo, da tuoi soldi, è la felicità tua e la felicità che riesci a regalare. E Maradona, da questo punto di vista, ne ha regalata tantissima. Come ha detto, come ci ha detto Gulli l'altro giorno, no? Quando era qui, lui può essere esempio per i giovani da molti aspetti, per altri può non esserlo, ma io non credo che il grande campione debba per forza essere l'esempio per il ragazzino, almeno non è questo che insegno ai miei figli, non so quello che fate voi. Moreno, buongiorno. Ciao Carlo. Io dica. Sono un tifoso della Juventus e sono assolutamente arrabbiato con Dybala per come si è comportato, perché non mi è piaciuto assolutamente, e in parte anche la stampa, perché ha crocifisso per lei quando l'ha fatto con Ventura, e ieri invece c'è la cosa di Dybala, basta così com'è. Questo giocatore qui arriva dal Palermo, con tutto rispetto, ci vuole qualcuno che gli spieghi che alla Juve non funziona così. Sì, ma l'hanno fatto, non lo vengono però a dire a noi, l'avranno anche fatto, a noi dicono quello che ha detto con grande intelligenza Allegri. Io piuttosto, ieri sono rimasto colpito da una frase di Buffon a bordo campo, che è questa. Senti, la Juve ha vinto, la Roma ha perso, cosa vuol dire? Sì, ha perso. Non sapevo neanche che giocasse a lettere, sì. Vi dico la verità, perché penso che in certi momenti si sia veramente da concentrarsi solo su noi stessi e su quello che deve fare ogni singolo giocatore, e con la massima onestà non sapevo neanche che giocasse, che abbia perso sicuramente fa sì che noi insomma aumentiamo questo vantaggio, e è stato molto importante. Non sapevo neanche che giocasse alle tre. Giuseppe Di Piazza, ciao Giuseppe, di Pierluigi. Io penso sia stato sincero, è chiaro che è assurdo. Perché è assurdo, però perché poi anche dal tono della conversazione e dal fatto che poi lui non è che dice chi se ne frega, dice no, è una buona notizia, cioè non è che lui non fa questa cosa per delegittimare la Roma, dice questa cosa e alla fine dice no, per noi è una buona notizia perché aumentiamo il vantaggio, quindi sì, non c'era secondo me nessun intento denigratorio. No, però al massimo livello professionistico possibile, giocare lo scudetto, non sai che se i tuoi competitor giocano alle tre, sì, non so come la interpreta Giuseppe però... Di Piazza, notizia fino al Corriere della Sera. Ma Gigi Buffon ha ragione, io penso che quando stai in quell'avventura pensi a te stesso, poi gli altri giochi non devi fare il meglio, in questo lo stile non è solo Juventus, io la storia per esempio di Dybala che sentivo prima dall'ascoltatore non è un problema della Juventus, questo è un problema di rispetto generale nei confronti degli allenatori e delle squadre, e non è che perché viene dal Palermo che c'entra questa storia del Palermo. No, nulla. Infatti, nulla. Non è un problema che è andato alla Juve, chiunque non dà la mano al proprio allenatore uscendo è un po' un cafone. E questa cosa non si fa, è un po' viziato, qualcuno gli avrà fatto credere di essere il nuovo Maradona. Dybala c'ha dei numeri pazzeschi, è bravissimo, un ragazzo che darà grande soddisfazione alla sua nazionale e alla Juve, io penso, però deve ancora trovare una sua misura. Nel caso di Buffon, ora da romanista lo dico, stimo talmente tanto Buffon che ogni sua parola penso che sia vera, all'età e l'esperienza per dire la verità, poi sono queste cose. Sì, comunque Giuseppe, sarete d'accordo tu e Pardo che una candidata seria a questo scudetto che la Juve sta cannibalizzando, come diceva prima Billy Costa Curta, non si fa raggiungere, superare in tre minuti dalla Sampdoria. Siamo ma no, d'accordo. Infatti, ma guarda, ci sono i limiti della nostra Roma, cioè è una squadra che improvvisamente si scioglie, non ha forse quella tenuta psicologica, mentale, sì, diciamo, mentale, che le grandi squadre dovrebbero avere. Lo ha dimostrato in altre occasioni, questa volta no, quindi non ha ancora quella continuità che la Juve, e per diventare la Juve ci vogliono forse altri 10 anni, per quanto riguarda, 10 anni di esperienza, 10 anni di tenuta in campo, forse un giorno l'avrà anche la Roma. Per ora è una squadra bella, che fa delle cose molto belle, con un grandissimo allenatore e con dei buchi improvvisi che permettono, come dirà, una Samp di diventare leader in campo nel giro di 3 minuti. Quindi suona la resa? Se no, la resa no, la resa no, fino all'ultimo giorno, perché può succedere di tutto, perché anche la Juve ha dimostrato di aver avuto delle belle amnesie in questa stagione, perché l'anno scorso non aveva avuto, 2 anni fa no. Insomma, può succedere di tutto, quindi bisogna combattere fino all'ultimo istante dell'ultima partita e poi vediamo. Però insomma, sappiamo anche che ci sono dei limiti di organico per quanto riguarda la Roma, di panchina corta, cioè varie cose che per ora ci mettono un po' in difficoltà. Sono anche poi voci che dicono: Paredes sarà Juventus, che andiamo a rinforzare il nemico, Pardo. Scusami, sì, Paredes, guarda, alla Paredes a 25 milioni, a 22 milioni si può vendere. Siamo uomini di mondo, è chiaro che sia lo stesso discorso che vale per Pjanic, che vale per Higuain, cioè comunque la Juve è una rivale dello stesso campionato, al di là della rivalità storica, ma cioè, no, stiamo parlando di classifica, il fatto che è una rivale diretta, no? Che gioca lo stesso campionato, quindi vendere Paredes penso che psicologicamente sarebbe una brutta botta, ma insomma la sproporzione di mezzi che esiste tra la Juve e le altre è abbastanza incredibile. Insomma, io ripeto, non è una situazione molto diversa da quella degli anni dei duelli Inter-Roma o Scalciopoli con la Juve che era un po' defilata, col Milan che era un po' in affanno. Il duello era Inter-Roma con la Roma che doveva cedere ogni anno quasi uno dei giocatori migliori. Beh, poi Samuel ancora prima, però insomma, era passato da Madrid, però ci fu Mancini, ci fu Kivu, poi sono stati giocatori che non hanno fatto cose clamorose, però comunque la sproporzione di mezzi era quella, e qui siamo secondo me più o meno nella stessa situazione. Sei d'accordo, no, direttore? Sì, guarda, c'è una sproporzione di mezzi e c'è da fare ancora tanto. Luciano Spalletti, non ho capito bene cosa abbia in mente, può darsi che fra 4 mesi, quando poi scade il contratto, ci faccia una bella sorpresa, oppure colpire, non lo so, questo non riesco a capire. Però certo la campagna acquisti adesso dovrebbe essere conclusa con almeno un buon colpo che dia un po' più di ossigeno. La mancanza di Salah si è fatta sentire in una partita come quella di ieri, però insomma, vediamo se qualcosa arriva, se questo che si è, non lo so. Paredes è un buon giocatore, a 25 milioni venderlo all'istante, ha ragione per lui. Alla Juventus, però, alla Juventus. Alla Juventus, ma la Juventus gli fa fare una bellissima panchina. Ho capito, no. Però sai, no, normalmente non si va a rinforzare la concorrenza interna, su questo è difficile dar torto a Pardo. Grazie Giuseppe. Non è così forte, eh? Normalmente la concorrenza non è così forte come la Juve. No, normalmente no, da quasi 6 anni sì. Grazie. Sì, esatto. Grazie, grazie Giuseppe Di Piazza, ci fermiamo per il traffico al volo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Non va bene, perché questa era un'opportunità per noi e sicuramente qua a casa dobbiamo prendere questi 3 punti. Non l'abbiamo fatto, ma va bene, è ancora lungo e dobbiamo alzare la testa e essere forti. Alzare la testa e essere forti, Pardo. Partita che ho commentato ieri sera, quella del Napoli, 1000 occasioni da gol non concretizzate. Immagina che faccia aveva Boris Sollazzo. L'hai visto allo stadio? No, non l'ho visto. Chissà se c'era. C'eri, Boris? No, forse no. No, non c'era. Meno male. Non c'ero, ma la mia faccia davanti alla televisione era altrettanto terra, soprattutto quando Insigne ha salvato sulla linea il gol per il Palermo. Incredibile. Ma guarda, noi non ce n'è una stagione così, perché se vi ricordate Napoli-Chievo di Benitez, lo stesso, addirittura dichiarazioni fotocopie. Benitez si disse dei 29 tiri in porta, Sarri ha detto delle 70 volte in area, però purtroppo non è un caso, contro 4 delle ultime 6 noi abbiamo perso 8 punti, i numeri non mentono mai. Quando si mette il pullman davanti alla porta il Napoli soffre, soprattutto con l'attacco dei piccoletti, non c'è niente da fare. Poi ieri, certo, è una partita maledetta che se la rigiochi altre 101 volte le vinci 102 volte. Ho capito, dovevi vincere questa per accappare la Roma a rimanere in scia, eh? Certo, no, ma se succede 4 volte, succede poi nel momento in cui c'è la giornata perfetta, in cui tutti ti danno la possibilità di guadagnare, vuol dire che è un piccolo problema di personalità. E di cambi di gioco, quando gli avversari ti leggono, cioè, insomma, Diego Lopez non è Mourinho, Pardo, volevi dire qualcosa? Guarda, io dicevo prima, faccio molta fatica perché la partita di ieri è veramente, come è stata anche Lazio-Chievo, per esempio, sabato, sono partite difficili da inquadrare. Quello che ha detto prima Billy è interessante, cioè anche la freddezza sotto porta la si può allenare. Può allenare. Sì, però poi insomma, alla fine, ragazzi, ieri per me il Napoli ha giocato meglio che con la Samp. Con la Samp ha vinto con un gol di Tonelli all'ultimo minuto dopo un'espulsione che non c'era. Non è che ci siamo andati po' troppo di violino con il Napoli, Pardo? Beh, un po' troppo di violino. Ultimamente Napoli e Roma avevano avuto due strade abbastanza simili, nel senso che tutte e due avevano vinto delle partite, tra virgolette, sporche, no? Delle partite complesse. Ricordi il primo tempo di Napoli-Pescara, no? senza gol e con qualche affanno, poi comunque Napoli aveva vinto facilmente. Poi sicuramente la vittoria contro il Milan a San Siro aveva dato un segnale, anche se il Milan in questo momento probabilmente è in calo. Detto questo, io faccio fatica a rimproverare qualcosa a Napoli ieri. Ha costruito una marea di occasioni, è mancata freddezza sotto porta, non c'è molto altro da dire. Col senno di poi, forse Pavoletti o addirittura Gabbiadini, cioè una punta un po' più fisica, la si poteva provare all'inizio del secondo tempo. Sei sotto 1-0. Il Napoli è un po' monotematico, questo lo sappiamo, è anche il suo bello, anche la sua forza. Gioca un calcio pazzesco quando riesce a giocarlo, quando invece qualcosa si inceppa è una squadra che fa un po' di fatica. Ieri era una partita dove dovevi probabilmente alzare qualche pallone in mezzo, ma il Napoli non c'era nel DNA questa roba, no? di andare a appoggiarsi verso una torre, quindi deve ancora imparare il suo piano B. Ecco, il piano B del Napoli non c'è. Lo dicevamo questo anche della Roma quando c'era Totti titolare, mancava il piano B, eccetera. Sì. Adesso il Napoli avrà rientro di Milik, avrà il ritorno in campo del nuovo acquisto, insomma, avrà un piano B Boris Sollazzo. Ma sì, secondo me c'è anche un problema di personalità nel momento in cui due giocatori, tra i più rappresentativi, sbagliano due gol a porta vuota. Può succedere, per carità, però insomma si fa fatica. Secondo me non abbiamo esagerato col violino. Il Napoli rimane, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo della rosa, la squadra che gioca il miglior calcio in Europa, senza avere i giocatori migliori in Europa, neanche lontanamente, voglio dire, non c'è uno degli 11 che sia il migliore nel suo ruolo, questo è poco ma sicuro. Sì, non ha torto neanche Piero, che però scrive: il Napoli è entrato in campo conoscendo già il risultato della Roma, doveva mangiarsi il Palermo. Qui torniamo alla questione dell'atteggiamento che la Juventus ha da cannibale, e non sto a ripetervi i numeri di quante volte comunque ha sbloccato la partita nel primo quarto d'ora, però entra in campo con quella roba lì. Ma guarda che il Napoli entra in campo con quella rabbia lì, poi al terzo minuto c'è Rispoli che pensa di essere Cafu, e Maximovic che non si capisce perché non va su Nestorovski, cioè non dico che lo deve marcare a uomo, ma l'unico pregio che ha Maximovic, che è costato 25 milioni di euro, è quello di essere più alto degli altri. Invece ci va Isai, che regolarmente poi è il giocatore che si fa superare in questi casi. Napoli non ha ragione per Luigi in questo. Napoli aggredisce la partita, non gli si può imputare la mancanza di voglia nel recupero a due occasioni clamorose, però io ripeto, forse la partita di ieri non è probante di nulla, è probante però il fatto che tu contro le ultime 6, 4 le hai pareggiate, contro Sampdoria e Pescara. E in un campionato come questo, abbiamo detto mille volte, non si può fare se ambisci a qualcosa di diverso che non sia il piazzamento in Champions League. Boris, ti ringrazio. Grazie, ti abbraccio, ciao, alla prossima. Ciao. Allora usiamo, Pierluigi, ti tocca, usiamo l'ultimo minuto per la tua schedina. E per è presentare... malissimo, è malissimo. Come De Luca, dove sei? Fammi sentire. Devo Pierluigi dire che siamo fra il 6 e il 9. Siamo fra il 6 e il 9, attenzione a un Sampdoria-Roma scivoloso per molte ragioni. No. È arrivato un notaio napoletano svizzero. Il notaio oggi porta brutte notizie. Solo 3 hai fatto, Pier. Ho capito, ragazzi. Che è successo? Raccontaci in 30 secondi. Cosa è successo? Cosa è successo? Ma non so, forse ho sottovalutato questo match. È stato un po' di concentrazione. Comunque voglio ringraziare i tifosi che sono stati fantastici. Il mister. Insomma, c'è stata una marea di sorprese. In realtà qui per cercare di fare, no? Per cercare di fare un buon punteggio, andiamo sempre su delle robe abbastanza scontate. E avevo messo il pareggio di Udinese Milan, invece si è andata malissimo, ragazzi, dai, di che dobbiamo discutere? dobbiamo solo aspettare. Non perdetevi De Luca stasera 23:45 tiki taka, ecco. Divano e tiki taka, c'è Cassano, poi ci sono tutti gli ospiti dell'associazione calciatori, Buffon, Ingolan, Amsic, sentirai pure Higuain, ti faccio sentire, anche se immagino che insomma, tu. Poi c'è Bonolis, poi c'è Tacchinardi, poi c'è Carlo Freccero, poi arriva Bruno Vespa tardi perché prima deve finire. Non li metti tutti questi cristiani? E li metto in vari posti, Cassano sta a casa sua a Genova, Bonolis sta a casa sua a Roma e gli altri stanno più o meno tutti in studio. Va bene, ciao Pierluigi, ragazzi. Ciao domani. Ciao. Noi ci fermiamo il tempo del GR e poi torniamo con Sua Maestà Roger Federer, quello è la macchina del tempo. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Convocati. Finisce così. Serena Williams vince per la settima volta agli Australian Open. Finisce così. Ha vinto Roger Federer. Torna a vincere uno slam dopo quasi 5 anni. 3-1 del quinto set Nadal, Federer ha infilato 5 game di fila. Che cosa si può dire di un fenomeno del genere? Che dire di più? Numero 23, come Michael Jordan, sono i titoli dello slam per la statunitense. È il quinto Australian Open, ma soprattutto è il 18° slam. Emozionato Federer, lacrime agli occhi. Quasi a 36 anni vince il 18° slam. 23 come il numero di Michael Jordan che ha fatto per venire a Serenona scarpette griffate. 23 era il numero di Michael Jordan, non i titoli vinti. Lui ne ha 26 mentre Serena ne ha vinti appunto 23. Beh, ci gira un po' la testa dopo questo giro sulla macchina del tempo, sulla DeLorean di hollywoodiana memoria, ma è stato un giro indimenticabile, credo anche per Paolo Bertolucci. Buongiorno. Ciao. Beh sì, indubbiamente io ieri, cioè i primi 4 bene o male sono riuscito anche a godermeli seduto sul divano, Il quinto l'ho visto tutto in piedi. Questo non è male. Oggi hai spiegato sulla Gazzetta dello Sport, come fai sempre, anche le ragioni tecniche della vittoria di Roger Federer, no Paolo? Allenato peraltro dal tuo compagno di microfono, ex compagno di microfono Ljubicic. Ex purtroppo, meglio per Federer comunque, perché il lavoro che ha fatto Ljubo in questi mesi è stato semplicemente eccezionale. Al di là dei consigli tecnici e di avere in mano un cavallino, insomma, che va anche da solo, l'umiltà del grande campione che, pur avendo vinto 17 titoli Slam, come dire, ha deciso di provare nuove strade che poi l'hanno portato al successo. Quali sono? Beh, indubbiamente una superiore aggressività. Prima si limitava molto con l'uso del back, invece adesso è sempre molto in risposta, molto, molto aggressivo, quasi violento. E poi verticalizza molto, molto di più il gioco. È ovvio che tutte queste cose qui le puoi fare quando hai in mano un arsenale assolutamente completo che ti permette di spaziare un po' in tutte le zone del campo. Insomma, altri giocatori invece sono obbligati a fare determinate cose, non possono avventurarsi in altre. Sì, io non, prima un ascoltatore ha fatto riferimento a un guru che diceva che Federer non avrebbe mai più vinto il titolo di uno slam, che era intervenuto nella nostra radio, non so, non è Paolo Bertolucci. Io confesso di aver detto qualche volta, sarà difficile rivedere Roger Federer sul trono per la 18ª volta, quindi cancellare quel 17 che porta anche un po' sfiga. Eppure c'è arrivato. Ma Paolo, mentre per questa finale tra le sorelle Williams, in attesa soprattutto per, ovviamente per Venus, con tutto quello che sta passando e ha passato e passerà, lì è il segno secondo me di un movimento in crisi, quello femminile che non riesce ad esprimere fiori nuovi. Federer Nadal invece è il fatto di una, secondo me, crisi individuale di Djokovic, che ha i problemi suoi, e di un Murray che non mi dà l'impressione di essere un numero uno da leggenda. No, non lo è da leggenda, però cioè, veniva da sei mesi fantastici, e quindi, insomma, come dire, un inciampo ci sta. Però io questa l'avevo definita come non una finale, ma proprio come la partita vera tra due fenomeni, perché non dobbiamo dimenticarci anche dello spagnolo, naturalmente, che hanno contribuito a sdoganare completamente, a allargare i confini del tennis e a portarlo veramente in tutte le case. Io credo che oggi Federer è in prima pagina su tutti i giornali del mondo. Del mondo, ma non quelli sportivi. Non quelli sportivi, bravo Paolo. Certo. Prima, infatti, io qui davanti, Corriere della Sera. Ma è proprio così, perché ho visto anche la stampa straniera, cioè non c'è un giornale al mondo dove non ha messo Federer oggi in prima pagina. Questo per parlare della grandezza assoluta di un campione, di un fenomeno, amato da tutti, perché poi questa è la cosa fantastica. Sì, campione trasversale, classico campione trasversale, per chiudere, sì, Paolo. Sì, qui sono, in Italia sono impazziti, io ho cercato di spiegargli che lui è svizzero. Però, lo so, però ci siamo, sai, è stata una botta di gioventù per tutti noi, no? Questa finale Federer Nadale. Appunto, è stato appunto come bravo, di 10 anni. Bravo, è stato come salire sulla macchina del tempo di quel famoso film, atto 1, 2, 3, 4, 5, atto 2 a Parigi. Riusciremo a salire di nuovo sulla macchina del tempo, sulla DeLorean di Ritorno al Futuro? È vero, ma loro, proprio perché sono due persone poi stupende, non solo in campo, l'abbiamo visto la dimostrazione, le dichiarazioni danno un senso proprio di pulizia allo sport e contribuiscono veramente a tenere su il tennis a livello planetario. Se riusciremo a vedere qualcosa di simile anche a Parigi, o è stata la rondine d'inverno? Ma io non credo che sia, mi auguro, ma non credo, insomma, di rivederli in finale. Però io sono convinto che visto la versione di Nadal sulla terra battuta, saranno cavoli amari per gli altri a batterlo, e Federer, no, sinceramente non credo a Parigi, ma insomma a Wimbledon, a Flushing Meadows, Federer in questa condizione io lo vedo molto molto avanti. Grazie Paolo, in bocca al lupo per il tuo lavoro e anche per il Milan, che mi sembra stia vivendo un momento difficile. Un momentaccio, ma con i giovani bisogna aver pazienza. Bravissimo, è quello che sto ripetendo. Bisogna aver pazienza, è non quello c'è niente che sto da ripetendo. Se questi ragazzi di 18 anni fossero già pronti, ma non è possibile, ci vuole 2 o 3 anni, commettere degli errori, capire dove si è sbagliato, eccetera. Esatto. Insomma, Totti a 18 anni non era quello che poi dopo si è rivelato. Vale per Del Piero, vale per Cristiano Ronaldo, però le basi ci sono, quindi lasciamoli crescere. Guarda, ne parlavamo prima con uno che conosci bene che si chiama Billy Costa Curta mezz'ora fa, e si diceva il Milan quasi deve correre con la testa abbassata senza neanche guardare la classifica, sì, in questa stagione, andare avanti con i giovani e difenderli e proteggerli dagli errori che fatalmente commettono. Certo, ma poi in classifica credo che il Milan sta dove deve stare, insomma. Bravissimo, bravissimo, esatto, è quello che dico. Va anch'io. Bene? Grazie Paolo. Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao Paolo Bertolucci. Ovviamente se volete intervenire oggi, domani, dopodomani, siamo sempre qui, noi di tutti convocati, 14, 15 e 30. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno Pardo e complimenti per la trasmissione. Pardo a preparare Tiki Taka, comunque 800 24 0024 vale tutti i giorni. Dica. Bene, bene. Io volevo solo segnalarvi questo: non state forse sottovalutando l'Inter come mezzi sia sportivi attuali per il terzo posto, sia come mezzi economici quando si diceva di indebolire le dirette concorrenti. Non lo sottovalutano assolutamente. Dica. Solo questo, solo questo. No, solo questo, perché l'ho sentita solo nella voce di Caressa così ad inizio trasmissione, ma immaginavo che fosse di sottofondo. È chiaro che il calendario sembra averla un po' agevolata per adesso. No, non è vero, anche perché all'inizio del ciclo post De Boer l'Inter ha giocato il derby, ha giocato con la Juventus, ha giocato con la Roma, ha avuto con la Fiorentina, se non ricordo male, ha avuto un avvio di post De Boer non facilissimo. Poi il calendario è quello che avevano la Roma e il Napoli ieri, il Napoli aveva il Pescara in casa, quindi... Non è una questione di calendario, io non sottovaluto l'Inter assolutamente, tanto che sono molto curioso di vedere anche la Juventus alla riprova dello Stadium, l'Inter alla riprova dello Stadium domenica sera contro una Juventus che sono curioso di vedere se terrà addosso la stessa pelle, ma credo di sì, e contro la squadra del momento che è l'Inter, che io continuo a pensare andrà a dare parecchio fastidio, e fino alla fine al Napoli e alla Roma alle spalle della Juventus per il posizionamento in Champions League, quindi non la sottovaluto per nulla. Stefano, dica. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Anch'io volevo parlare del Milan, ma in realtà credo che il problema principale nel Milan non sia lo stesso Milan quanto giocatori, perché non possiamo dire niente, e anche dei limiti, forse il limite è Montella, in quanto ha creato comunque un ottimo ambiente, equilibrio, ha un savoir-faire e un'ironia perfetta, però ha dato anche un'impostazione tattica alla squadra, però il problema è che lui non sa vedere e non sa cambiare mai in corsa una squadra. Toglie Suso e mette un esterno, toglie Bonaventura e mette un esterno, toglie Bacca e mette la Padula. Cioè, voglio dire, deve qualche volta cercare. È arrivato Pioli all'Inter, ha modificato l'assetto, centrali in mediana. Anche il Milan è stato modificato all'inizio da Montelli in maniera profonda. Pioli è arrivato in un casino pazzesco. Il grande merito di Pioli è stato quello della saggezza, no? Come ha detto poco fa Moratti, il normal one, Pioli è il normal one, l'Inter meglio del previsto, ha detto Moratti, ma perché? Perché ha fatto delle cose molto semplici che il suo predecessore non è stato in grado di fare, vuoi per limiti, vuoi per provenienza. Ha battezzato un'ossatura, ha battezzato un assetto, ha battezzato dei giocatori che sono diventati la trave portante dell'Inter, e su questa ha lavorato. Tant'è vero, esempio più chiaro è Gagliardini, che è arrivato dall'Atalanta, che è bravissimo, però preso, messo in campo, è stabilmente tra i migliori, prima partita migliore in campo, ma perché è stato messo in una squadra che funziona, ha migliorato il rendimento di Kondogbia, è andato con le chiavi della semplicità ad aggiustare quella macchina, Pioli. Montella ha dato un gioco al Milan, ha dato una faccia al Milan, una fisionomia al Milan, ha una squadra estremamente giovane, sono gli anni della semina di quanto prodotto da un settore giovanile che sta lavorando benissimo ormai da anni. Il Milan è una delle squadre più giovani d'Europa. È chiaro che con i giovani vai in altalena, Donnarumma può commettere degli errori, se no non sarebbe un umano. Locatelli è un periodo in cui non gioca bene, va fatto giocare e difeso, come diceva prima Paolo Bertolucci. Allora, questa semina non va sprecata ed è per questo che dico che al di là della lettura o non lettura delle partite, è chiarissimo che il problema del Milan sta nell'organico, nonostante l'arrivo di ufficiale di Ocampos che oggi ha fatto le visite mediche. Ci sono questi due infortuni, De Sciglio e Bonaventura. Bonaventura fuori per due mesi e mezzo. De Sciglio ne avrà per 3-4 settimane per quella intrattaccia ieri di De Paul, che andava espulso, invece poi è andato a fare il gol della vittoria. Mettiamoci pure un po' di sfiga in questo capitolo. Insomma, non mi pare che Montella di più potesse fare, e non mi pare che più di così debba fare con quello che ha a disposizione. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un piccolo excursus nel passato, nel 2014, quando dopo la semifinale dell'Australian Open, in cui il numero 3 perse al numero 2, lei disse che il numero 3 era pronto e impacchettato per la pensione. Il numero 3 da allora ha fatto 3 finali slam, 7 semifinali, fino a ieri. Poi ieri ha vinto un altro slam. Solo questo. Sì, sì, fa benissimo a sottolinearlo. Io faccio ammenda, ma io confesso, non mi aspettavo mai e poi mai di rivedere Roger Federer sul trono, ma non mi aspettavo nemmeno di rivedere Nadal in finale. Fate benissimo a sottolinearlo. E io mi prendo la paternità totale di quanto ho detto. Non mi aspettavo di rivedere Federer sul tetto del mondo di uno slam, e nonostante ciò sono felicissimo di essermi sbagliato e di prendermi le pubbliche ammende. Giulio, buongiorno. Carlo, eccomi, piacere di sentirti. Piacere mio. No, volevo un attimo tornare sul tennis, perché è ovvio che lo stiamo giudicando probabilmente con il cuore, pieno di emozioni, soprattutto in campo maschile. Poi io sono un fan di Edberg, quindi figurati, non vorrei l'eternità per Federer. E più che altro il discorso va sulla finale femminile. Sì. Non mi sembra un grande spot per il tennis, come ho sentito in interviste illustri, vedesi Pietrangeli. No, l'ho detto anche prima con Bertolucci, cioè che la finale possa essere Serena contro Venus, come peraltro non accadeva da moltissimi anni, e siamo tutti d'accordo, è un segno di debolezza del movimento femminile che non riesce a trovare ad alto livello un ricambio generazionale all'altezza. Questo è un segno di debolezza del movimento femminile, ed è un discorso diverso invece quello che riguarda la finale tra Federer e Nadal, ma l'abbiamo già fatto. Io credo che Venus continuerà a dominare e supererà quel 23 numero di Michael Jordan, numero di maglia di Michael Jordan, numero di titoli vinto da Serena invece. Allora, torniamo a sentire una delle mie rubriche preferite, irrinunciabile, la top 3 delle dichiarazioni della domenica. Abbiamo per primo, sul primo gradino del podio, Gabigol, che gioca poco, non segna mai, ma in compenso parla un eccellente italiano. Io sono troppo contento di essere entrato oggi, tifosi sempre così come io, quindi va bene, aspetto aiutare sempre, ma il più importante è vincere la squadra, e così sono troppo felice. Quando ho prendito la palla e ho visto la tifosi, tira, tutti i giocatori, tira, va bene, io tiro, però io penso che il portiere ha fatto una bella difesa. Però c'è Eder, però Eder ha fatto un gol, adesso sono io. Beh, complimenti per l'italiano a Gabigol. Intanto è iniziato ieri l'anno del gallo in Cina, e c'è Mertens che fa gli auguri in cinese. Ni hao China, I'm Dries Mertens and I want to thank everybody for the support in China. Su da ya, yin ya, qualie, ni mai dao, hu se pao. Le ma Chussi, yeah, ni daia le ma. Però abbiamo degli stranieri poliglota mica da poco, Infine Siparietto, Marocchi, Allegri. Costa Curta e Marocchi si ammutinavano e se ne andavano qualora lei avesse detto che la Juve oggi poteva migliorare in qualcosa. Gli è scappato, però non possiamo allontanarci di qui, siamo microfonati, legati alla sedia, quindi... Ma non l'ha detto, devo dire la verità, non l'ha criticata ancora. Ha detto, ma si può migliorare, gli è scappato. No, ma è vero, perché per dire, c'è stato un momento in cui... abbiamo sbagliato diverse palle il primo tempo nel momento, abbastanza facili. Allegri il perfezionista. Luca Marchetti, cosa daresti per una ternana a livello della Juventus? Quello che vuoi. Siamo ben ultimi della classifica. Sì, la risaliranno, anzi, io non gioco. Dillo in cinese, dillo in cinese se sei capace. Io credo che l'apertura di Mertens alla Cina sia molto sospetta. Molto indicativa, sì, sospetta. Sì, ha capito che non è che ci vanno tutti e si candida. Si candida per un container di detto questo, Mertens è un personaggio strepitoso, perché io ho avuto modo di vedere sui social quello che faceva, diciamo che un Papo Gomez a Napoli. Ne fa tante. Sì. Senti, Gabbiadini, Paredes e adesso ha aggiunto Badel come nomi dell'ultimo momento del mercato. Gabbiadini, va via o no? Tu non ci crederai, ma io credo che gli ultimi due giorni di mercato di qualsiasi sessione siano sempre più difficili, perché qualsiasi cosa esce naturalmente va verificata, si informa, la maggior parte delle cose sono idee che vengono agli stessi dirigenti all'ultimo minuto, ma non c'è spazio per farle. Gabbiadini ne parliamo da mesi. Un mese e mezzo, sì. De Laurentiis ancora non si è convinto che sia l'offerta giusta quella del Southampton, che ha in realtà anche aumentato l'offerta del fitto. In realtà, da quello che abbiamo capito noi, il Napoli vorrebbe 20 milioni anche con bonus facilmente raggiungibili, ma 20 milioni vorrebbe vedere in cassa. Sì. E così non li ha. Siamo a 18 più bonus con percentuale di futura rivendita. Adesso, sinceramente, se fai una trattativa non è che puoi avere per forza tutto quello che vuoi. È chiaro, Luca, devi un minimo accontentarti, soprattutto se hai detto che è un giocatore che va via, lui vuole andare via, todo il mondo vuole che cambi aria, più di così che cosa vuole. Gabbiadini naturalmente è molto nervoso in questo momento. Io l'avevo detto anche la settimana scorsa dell'offerta dei 16+4. Secondo me l'offerta del Southampton era un'offerta molto furba e intelligente, perché alla fine ai 20 tecnicamente ci arrivava. Sì. Se Gabbiadini avesse fatto bene, come il Napoli ritiene che possa fare, e allora non doveva temere di nulla, perché i 20 li avrebbe presi. Hanno addirittura migliorato questa offerta. Rimango sempre più dell'idea che è molto complicato per il Napoli andare a prendere più di così. Cioè, però, la mia idea personale, evidentemente non sono d'accordo ma con te. Sarà il solito lancio del contratto dalla finestra all'ultimo secondo, vedrai. Mal di pancia di Manolas? Passerà a giugno e Paredes alla Juventus? Io non la vedo molto facile. La Juventus continua a dire attraverso i canali ufficiali che il mercato è finito, che i soldi non ci sono, che Paredes è un giocatore che piace, ci mancherebbe pure, sono almeno due anni che la Juventus lo segue, già da quando era all'Empoli. L'unica possibilità che c'è è se in queste prossime 30 ore vende un giocatore, nella fattispecie Lemina, e quindi potrebbe avere lo spazio economico per farla questa operazione qua. C'è. E di conseguenza la Roma dovrebbe andare a prendere un centrocampista, che possa essere Donzà, che possa essere Baselio, che possa essere... che avevamo detto prima, Badeli. Uh-huh. Credo che la Roma, se deve arrivare all'ultimo giorno di mercato con una piccola percentuale, anche minima, di poter vendere Paredes, deve essere pronta, deve almeno essere pronta a coprirsi. Luca, mi raccomando, copriti tu, perché le prossime ore saranno difficili. Ti ho visto un po' provato l'ultima volta che siamo incrociati a Sky. Sì. Sei molto peggiorato, mi raccomando, abbi cura di te, che ti vogliamo bene. Grazie Luca Marchetti. Ciao Carlo. Allora, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ragazzi, sentiamo domani, tutti convocati.